Il 20 giugno sarà la quarta giornata di formazione per la nuova cellula delle persone libro della città L'Aquila. È un'esperienza speciale, è un'esperienza particolare, non solo per loro, ma credo soprattutto per noi che stiamo formando in maniera un po' presuntuosa, come se avessimo veramente qualcosa da insegnare. Questo è uno dei problemi forse più aggrovigliati del fare la persona libro, perché la persona libro non ha nulla da insegnare, la persona libro può trasmettere la propria esperienza. Quando noi siamo nate come persone libro, non abbiamo ricevuto un insegnamento, bensì delle indicazioni di massima e più che altro degli stimoli su cui poi lavorare e sperimentare, facendo veramente pratica. Uno degli stimoli più feroci, direi, che tuttora rappresenta un buco nero per tutte le persone libro, è proprio quello della parola vinculata, come la definisce Antonio Rodriguez Menéndez, che è il fondatore del progetto Fahrenheit 451. Parola vinculata può significare tante cose. Significa che la voce deve essere vincolata al testo e alle parole che dice, quindi sentirle, sentirle dentro, lettera per lettera, suono per suono. Vincolare significa vincolare chi ascolta a quelle parole, quindi non solo chi le dice, ma anche la creazione di una relazione precisa, intima, naturale e necessaria con chi ascolta. In questo sta la potenza del recupero dell'oralità. In questo sta la parola mirata, cioè la parola che diventa sguardo dedicato. Questo sguardo interiore che diventa fiato e si sposta in uno sguardo esteriore è un processo infinito, in cui credo non si arriverà mai a un obiettivo preciso, a quel momento magico in cui uno potrà dire ce l'ho fatta. Sono istanti. Ora, in questo percorso formativo che stiamo svolgendo presso la Bibliocasa di L'Aquila, ci troviamo di fronte a degli sguardi che sono veramente avidi, perché le persone dell'Aquila hanno vissuto un'esperienza che non è, come dire, condivisibile solo perché tutti noi abbiamo visto le immagini del terremoto e perché l'esperienza che oggi vivono le popolazioni emiliane ripete in qualche modo questo rito di solidarietà. Ci sono degli accadimenti, delle esperienze che appunto diventano poi un patrimonio interno, della memoria interna delle persone, che aprono degli abissi e delle voragini, dei terremoti interni che non smettono più. E trovare in questo una nuova forma di solidità e di certezza dell'esistere è veramente un percorso terapeutico. E questo pone la necessità da parte del progetto delle persone libro di fare veramente i conti con questa parola vinculata e questo sguardo necessario per far esistere sia chi dice sia chi ascolta. Quello che voglio dire è che questa esperienza in realtà darà molto di più a noi, forse, che a queste nuove persone libro. Darà a noi perché ci costringe a riflettere, ci costringe a fermarci, ci costringe a ripensare e a ritrovare forse un senso sociale più ampio di quello che stiamo proponendo. Ed è bellissima questa costruzione con queste persone che a occhio e croce sono diventate 11 nel giro di pochissimi incontri, perché il 20 giugno sarà il quarto. Persone che devono far posto nella loro memoria delle parole tratte dai libri, far posto dentro una memoria che è piena, piena di macerie. E non sono solo le macerie di una città che tuttora è sostenuta da impalcature e da zone rosse, vuota, deserta, privata del suo tessuto sociale, ma fondamentalmente poi anche quella memoria della paura che non passa mai. sentito il bisogno di riprendere un libro che mi è particolarmente caro. E sempre convinta della necessità che i libri possono svolgere a livello proprio di percorso terapeutico nella nostra vita. Il libro di cui parlo è un testo abbastanza vecchiotto di James Hillman, Le storie che curano, edito da Raffaello Cortina Editore, dove Hillman si sofferma in diverse pagine su proprio la guarigione della memoria, perché ovviamente affronta il problema da un punto di vista analitico. Però questo bisogno di guarire la memoria mi ha colpito e me ne sono ricordata proprio di fronte a questa esperienza aquilana. E una cosa che dice Hillman è che la memoria guarisce nell'immaginazione, il che significa imparare a trattare gli accadimenti esterni che poi introiettiamo come ricordi, semplicemente come immagini, a trattarli come se fossero cose che in realtà non sono più realmente vere, perché nel momento in cui diventano ricordi sono state rielaborate. I ricordi servono a dare un fondamento alla nostra storia, ma non sono mai realmente legati agli eventi. Tant'è vero che possiamo ricordarci anche di cose che non sono accadute. Possiamo ricordarci, questo avviene molto nei sogni, di cose che non sono vere, eppure sentiamo in quel non accaduto e in quel non vero una profonda verità, che è la verità che diamo noi come persone, a quel vissuto emozionale. Come si fa a guarire tramite l'immaginazione? Ecco, credo proprio che questa rielaborazione sulle immagini possa essere anche collegata alla rielaborazione tramite le parole che noi operiamo imparando a memoria dei libri, dei testi. Una cosa curiosa è che tra le persone del gruppo dell'Aquila c'è una persona libro bravissima ormai a dire i testi delle canzoni, che ha scelto come proprio personale repertorio, ed è una cosa difficilissima, forse più difficile dire una canzone piuttosto che un pezzo di prosa, perché la canzone ha un ricordo musicale, ha una musica sentita, percepita, che si è collegata strettamente alle parole, e quindi scardinarla da quel suono è decisamente difficile. Recuperare la tessitura sonora della parola distinta dalla tessitura di una partitura musicale è un'operazione veramente sottile. E quindi doppiamente brava questa persona libro, doppiamente interessante anche quindi il lavoro di riappropriazione che ogni volta su ogni tipo di testo è diverso, su un tipo di testo saggistico, prosastico o poetico. Storia e memoria quindi sono due elementi estremamente distinti in realtà, perché hanno bisogno l'uno dell'altro, ma appunto non è detto che la memoria ricordi realmente ciò che storicamente è accaduto, perché lo rielabora. E di questo abbiamo esperienza tutti quanti, non solo nei sogni, anche quando cerchiamo di raccontare a qualcuno storie che riguardano la nostra vita passata. In qualche modo ci rendiamo conto che stiamo rielaborandola, la stiamo appunto trasformandola nel codice del racconto e quindi modificandola. E procediamo per immagini, vedendo quasi il film di cui stiamo raccontando sequenze per sequenze, e quindi aggiustiamo il montaggio, anzi forse attraverso il montaggio creiamo proprio un nuovo senso e un nuovo percorso. Uno degli elementi più importanti del nostro lavoro è proprio quello di non considerare la memorizzazione come qualcosa di meccanico, perché imparare a memoria è un'arte della fluidità, in realtà, è un'arte dell'accoglienza. Bisogna accogliere le parole, non bisogna impadronirsene, non bisogna esercitare un controllo. effettivamente razionale. Bisogna ascoltarle, bisogna farle esistere come fiato, quindi semmai sentirle, vederle nell'aria e accoglierle in modo tale che siano precise, esatte, cercando di eliminare quella interruzione, interferenza continua che il nostro cervello fa di fronte alle parole, cercando i sinonimi, in qualche modo cercando di, appunto, di elaborarle, quindi di ricordarle, modificandole. Il ricordo esatto è un'altra cosa. Il ricordo esatto smette di essere un ricordo, è proprio di nuovo invece quasi una letteralità, un processo diretto di contatto. E questo essere, ecco, vincolati nel dire a quella parola esatta è una, vorrei dire, una consolazione, non una soddisfazione, semmai una gratificazione. Si crea quasi una sorta di desiderio di dire grazie a quella parola, di essere rimasta lì, indenne, intatta, resistente ai nostri tentativi di modificarla. E qui subentra il processo della lentezza, della calma, perché noi utilizziamo la parola lentezza, ma credo che appunto proprio Hillman in realtà chiamerebbe questo processo calma. Non ha niente a che fare con la pace, anzi, è proprio la visione dei conflitti, è proprio l'accettazione del conflitto. È proprio la capacità di fare quel passo indietro, di prendere quella distanza necessaria dalla turbolenza, vederla per quello che è, il conflitto che si crea tra noi che vogliamo sostituire la parola reale, il conflitto che si crea tra l'emozione che ci suscita quella parola e la voce che la dice ad alta voce, che non corrisponde all'idea che noi avremmo di tutto ciò. Ecco, tutta questa dinamica invece di subirla, quindi di agirla dall'interno, dobbiamo guardarla. E per poterla guardare, prenderne distanza, ecco che la calma, quella che abbiamo definito lentezza, è fondamentalmente il primo passo verso la guarigione dal tumulto, dal conflitto e quindi l'approdo quasi naturale alla appropriatezza poi della nostra voce rispetto a quella parola e di quella parola dentro la nostra memoria. Si può utilizzare tutto questo come un percorso terapeutico per guarire la memoria, guarire quella memoria che è stata violentata da accadimenti troppo appunto violenti, da un conflitto e da una paura che continuano a resistere dentro? Io credo di sì. Credo di sì perché altrimenti dovremmo veramente chiederci una volta per tutte, senza trovare risposte approssimative, a cosa serva la cultura. Perché il problema è sempre lo stesso. La bellezza di un quartiere, come dice la nostra Carta dei diritti della lettura, vale tanto quanto la bellezza di un'opera d'arte. E vale tanto quanto significa che noi dobbiamo imparare ad avere gli occhi e gli strumenti, quindi giusti, per riuscire a valutare questa bellezza, per riuscire a riconoscerla. E la bellezza non è un concetto né universale né a sé stante, appartiene sempre al nostro registro emotivo e appartiene al modo con cui emozionalmente, intellettualmente siamo stati educati, coltivati e cresciuti. Il problema della cultura è un problema di formazione permanente. E se abbiamo intenzione veramente di dare, riconoscere giusto valore alla cultura e alla lettura come strumento principe, lettura intesa come interpretazione globale della realtà, personale, collettiva, esterna, sociale, etnica, vorrei dire, ecco, allora bisogna veramente cominciare a insistere sulla necessità di percorsi formativi permanenti. È inutile prendersela con le deficienze e le carenze della scuola. È È inutile dal momento in cui una scuola in questo senso dovrebbe durare tutta la vita. E dovrebbe durare tutta la vita e in tutti i momenti della vita di noi cittadini e cittadine. È cultura la dinamica, la conflittualità tra i generi, di cui ormai le pagine sociali e della cronaca quotidiana sono piene. È cultura e mancanza di cultura tutto quello che non porta come comportamento e come pensiero al rispetto. E il rispetto non significa una scelta preferenziale di cose da proteggere e di altre cose invece da dimenticare, da eliminare o peggio da distruggere. Quando su Facebook, no, esplodono tutte le citazioni a destra e a manca di Einstein, di Margherita Hack, di Rita Levi-Montalcini, per quasi supportare dei pensieri che vorremmo comuni, e quindi il famoso ipse dixit chiamato in causa per dare più forza a un pensiero personale, ecco lì si agita tutto un bisogno di parole, di messaggi che le parole veicolano, che rappresenta una grande fame di cultura e un grande vuoto culturale. Noi non viviamo più, direi dagli anni 60, dentro la sindrome dell'ipse dixit, nel senso che abbiamo ucciso sia il padre e sia il padrone, attraverso varie forme di lotte sociali, e credo che il movimento delle donne in questo senso abbia veramente prodotto una rivoluzione. Ma non è sufficiente, non è sufficiente se ancora oggi ci attacchiamo all'ipse dixit di turno, che può diventare anche il personaggio pubblico o appunto il guitto che si trasforma in politico o la politica che diventa una grande buffonata, ma comunque quell'ipse dixit che chiamiamo continuamente in causa a sostegno di un pensiero dimostra fondamentalmente ancora la nostra dipendenza. C'è niente da fare. Ancora una volta siamo tutti figli e figlie di qualcuno, orfani, ma figli. Non riusciamo a crescere, non riusciamo a diventare indipendenti, non riusciamo a fare dell'indipendenza una forma di forza, una forma di realizzazione. E questo mette la cultura a un livello subalterno, perché la cultura invece è la strada principe attraverso l'educazione, la formazione, lo ripeto, permanente per costruire realmente una persona. Non sono le esperienze che viviamo quelle che fondamentalmente ci fanno crescere. Voglio dire, non sono le esperienze ridotte ad avvenimenti, ridotte a sperimentazioni, sono la rielaborazione che noi facciamo di questi accadimenti, sono appunto il modo in cui li ricordiamo o non li ricordiamo, sono il modo in cui entreranno poi nella nostra memoria permanente, diventeranno immagini e nella nostra immaginazione produrranno altri sensi. Se non c'è tutto questo processo, tutto quello che accade diventa, non so, materia per riempire un sacco, ma questo sacco è pesante, non serve e lo abbandoneremo, tornando ad essere vuoti, privi e bisognosi di altre cose che ci riempiano. Mentre la solidità di un cammino, la solidità di una persona si costruisce proprio attraverso l'opera del setaccio, l'opera della sottrazione, della eliminazione, non attraverso l'aggiunzione. E questo accumulo invece continuo, insostenibile, in cui viviamo socialmente, economicamente, non può essere eliminato semplicemente da un momento di crisi che ci costringe tutti alla restrizione. Il momento di crisi, se è vero che come tutte le crisi può aprire altre strade, dovrebbe farci alzare la domanda. E la domanda è una domanda di qualità, è una domanda di continuità, è una domanda appunto formativa. Quando io vado all'Aquila, nella bibliocasa, che sta in una zona completamente inventata post-terremoto, E inventata significa che appartiene più o meno a quel progetto case che ha distribuito, sparpagliando le persone in un posto piuttosto che un altro, distruggendo il tessuto sociale di relazioni che quelle persone avevano. Ecco, è lì che assisto a quello che significa non aver capito che la comunità, qualsiasi comunità, vive, cresce, prospera e cresce soprattutto, vorrei sottolinearlo, proprio attraverso la dinamica del tessuto sociale, attraverso l'importanza delle relazioni, attraverso il confronto e il racconto anche di ciò che si è vissuto, di ciò e la speranza, l'immaginazione di ciò che si vivrà. E quindi la necessità oggi, per esempio per la città dell'Aquila, di riprendersi un centro storico non è la pretesa di riprendersi un patrimonio, come dire, artistico, che è una sorta di fotografia dell'immobilismo dell'uomo. Esattamente il contrario. È proprio rivalutare il rapporto continuo, quella bellezza che dicevamo prima del quartiere in cui si abita, che in qualche modo riflette, riproduce, rinsalda la bellezza delle persone che vi abitano. E questo è importante capirlo ora di fronte ai vari cataclismi che questo paese sismico sta subendo e li sta subendo per una mancanza di politica culturale rispetto alla prevenzione, per una mancanza di politica culturale rispetto all'habitat e alla ospitalità che è il legame fortissimo con cui dobbiamo vivere il nostro pianeta. Non è importante che la nostra scienza oggi non sia in grado di prevedere i terremoti e non mi importa neanche affrontare la discussione da un punto di vista di verità o non verità di questa asserzione. La cosa importante è invece che è ora, perché siamo in ritardo, maledettamente in ritardo, imparare a costruire delle basi solide culturali di prevenzione su tutto. Su tutto significa di prevenzione di tutti quei conflitti che inevitabilmente l'essere umano si porta ovunque esso metta radici. Questi conflitti nelle relazioni tra uomo e donna, nelle relazioni generazionali, nelle relazioni di potere, nelle relazioni economiche. Se non affrontiamo il conflitto senza avere paura del conflitto, se cambiamo il concetto stesso della competitività non in una visione mercantile di accumulo e di profitto, ma in una visione allargata di vantaggi reciproci, allora in realtà qualsiasi cosa noi faremo a livello culturale sarà lettera morta, perché non ci sarà nessuno dall'altra parte in grado di capire quello che veramente serve e quello che non serve. Quando noi andiamo in giro per le strade a dire i nostri testi, non facciamo spettacolo. Quando andremo in giro con le persone aquilane a dire nei vari posti di questo immenso cratere i testi che le persone aquilane sceglieranno di dire, non faremo spettacolo, non saremo né teatro ambulante, non saremo nulla di tutto questo, saremo persone che vanno in giro a dire ad altre persone: senti quanto è importante quello che sto dicendo. Abbiamo tutti crisi di identità, perché un'identità è un'illusione. Proprio su questa consapevolezza dobbiamo ricostruire il valore di una coscienza che soprattutto fondi il proprio pensare e il proprio agire sulla responsabilità. E non c'è nessuna responsabilità che non possa basarsi sul mettersi in gioco in prima persona. Quell'ipse dixit a cui ci appoggiamo crea una dipendenza da cui dobbiamo liberarci, perché dobbiamo diventare noi i veri, tra virgolette, padroni, nel senso di responsabili, delle parole e delle azioni che facciamo.